la vita di Lodovico Cardi, conosciuto come il Cigoli, pittore ed architetto. A cura del Comitato Festeggiamenti nel 400° anniversario dalla sua scomparsa. Realizzazione e voce narrante Fabrizio Mandorlini. A Castelvecchio di Cigoli, nella ridente terra di San Miniato, da Ginevra Mazzi e da Giovan Battista di Olivieri Cardi, fiorentini, nacque il 21 settembre 1559 Lodovico. Ritenendo la famiglia molto civile e competentemente provveduta di sostanza, sia il castello di Cigoli che propria terra vicino ad Empoli ebbe Lodovico nella sua prima età gli insegnamenti di umane lettere, presso il valente maestro Bastiano, detto il Morellone, fino all'età di anni 13. Ma dividendo egli il tempo tra lettere e disegno, con delineare spiritose figure sopra piccole carte, il padre, trasferitosi a Firenze, non si oppose a che il figlio nella sua diletta occupazione si approfondisse e si decise di porlo allo studio di Alessandro Allori, pittore che andava sul momento per la maggiore, assai stimato in Firenze. Studio ove il giovane stette dai 13 ai 18 anni, dal 72 al 76 circa, gli anni cioè più importanti a lasciare in lui una traccia durevole. È questo il periodo di studio indefesso, di duro tirocinio e di pratica, in quella tale stanza che l'Allori aveva nei chiostri di San Lorenzo, ove teneva, come di suo solito, lungamente gli allievi sopra i cadaveri, a dissezionarli, a discernere i muscoli, le ossa, le infinite legature e i tendini, di cui il corpo è intessuto, prima di lasciar loro in mano i pennelli. In quelle malinconiche occupazioni, tra il fetore e schifezza dei cadaveri, spavento e terrore di siffatti spettacoli, assiduità ed attenzione nel disegnarli, fu nella detta stanza dal malcaduto così fieramente assalito, che quasi un mese stette in tal maniera sbalordito, ed in particolare con la memoria offesa che poco punto delle cose passate ricordava. Fu mandato dal padre a ritemprare le forze nel castello di Cigoli, tra le vigne, gli ulivi, il venticello pulito della sua terra. Stette in questa sorta di convalescenza dalla sua forma di epilessia durante 3 anni quasi isolato, dal 76 al 79, e gradatamente andava dipingendo cose di basso rilievo fino all'invito del Buontalenti. Messer Bernardo, detto delle Girandole, suo caro amico e maestro, come attesta il nipote con una lettera, invitava il giovane a tornare a Firenze per finire alcune opere lasciate interrotte da Antonio Crocino, mediocre pittore fiorentino che era morto nel 78. Il San Francesco di Paola per la chiesa di San Giovanni a Firenze è la sua prima opera citata dalle fonti. Condusse in quel tempo la decorazione a grottesche ornate di un soffitto, non meglio identificato nella Galleria degli Uffizi. Nello studio del Buontalenti non ha solamente un avvio ed un approfondimento per le regole dell'architettura e per le leggi della prospettiva, che tanto l'appassioneranno nell'età più matura, ma frequenta e conosce le maggiori personalità del momento, artisti, scienziati e principi. Da Santi di Tito egli andava ogni giorno a disegnare, dal naturale. A lezione di matematica da Ostilio Ricci, suo amico, insegnante e frequentatore della casa di Don Giovanni de' Medici. Fu nello studio del Buontalenti che si fece conoscere dal Granduca Francesco, entrando così nella domestichezza di Casa Medici, che così fortemente lo proteggerà e lo stimerà fino agli ultimi anni del soggiorno romano. appassionato disegnatore, ricopia le opere del Pontormo, di Michelangelo, dei manieristi della prima generazione e attende a piccole tavole ed operette di minor conto. Ma l'avvio, la molla, per un maggiore impegno nella sua opera di artista, a detta delle fonti, pare sia stata la vista della Madonna del Popolo di Federico Baroccio, che corse a vedere nella pieve di Arezzo insieme all'amico e pittore Gregorio Pagani, dalla quale opera rimasero entrambi folgorati. È di questo momento il primo incarico importante, la prima commissione che lo mette in lizza con i migliori nomi di Firenze. Due affreschi nel chiostro grande di Santa Maria Novella, condotti tra l'81 e l'84. Prima, il Cristo al Limbo, al quale seguì la Vestizione di San Vincenzo Ferrer. Ma i molteplici interessi del Cigoli non si accontentano della pittura. Dopo l'84, infatti, c'è come una lunga parentesi, durante la quale poco dipinge e molto disegna, cercando un approfondimento, una più scelta preparazione. E l'attività di architetto lo affascina, accanto a quella dello scenografo, del creatore di apparati festivi, un'attività con la quale certo aveva preso amore, nella casa di Messer Bernardo delle Girandole, il mago del momento per una simile arte. Dapprima al suo fianco, poi sempre più libero e personale, la sua opera è continuamente richiesta per gli ammirevoli festeggiamenti nella Firenze del tempo, che certo il momento era dei più propizi. Ben 4 matrimoni si celebrano in questi anni all'interno della Casa dei Medici. Gli archi trionfali, le scenografie, i costumi per gli spettacoli di occasione, le bardature, i carri montati per le feste, sono all'ordine del giorno, e gli architetti, gli uomini di gusto come il Buontalenti o come il Cigoli, sono continuamente richiesti. Già nel 1579 Francesco I sposava in seconde nozze Bianca Cappello. Nel 1586 Don Cesare d'Este sposava Virginia, figlia di Cosimo. Nello stesso anno Vincenzo Gonzaga, duca di Mantova, sposava Eleonora, figlia di Francesco. Nel 1589 sarà addirittura Ferdinando I a sposare Cristina di Lorena. Fervono le giostre, gli spettacoli, i preparativi. Lodovico, prodigo e appassionato, si ingegna ad architettare invenzioni di gusto raffinato e si fa un nome sempre più chiaro, tanto che si chiederà anche a lui, insieme agli architetti più rinomati, di pensare ad un modello per la sistemazione della facciata di Santa Maria del Fiore. Progetti architettonici, modelli e disegni di feste che non lo distraggono completamente dalla pittura, continuando egli a disegnare le belle statue di Michelangelo nella sacrestia vecchia di San Lorenzo. E insieme ai disegni per la Porta dei Gaddi, per la Cappella del Santissimo Sacramento in San Marco, insieme ai modelli della facciata del Duomo, conduce in questo periodo ad affresco alcune storie di Goffredo di Buglione nella Medicea Villa della Petraia, ora scomparse per il maltempo, soggetto certamente ideale per un modo di essere e di sentire qual era il suo, lirico e malinconico, vicino e anticipatore di un'atmosfera arcadica e nello spirito quasi tassesca. Di questo lirico sentimento e di questa musicale tendenza è una prova alla memoria che danno le fonti di un suo dilettarsi a suonare il liuto. Proprio in quegli anni prima del 90, anni di giovanili furori e abbandoni. Il martirio di San Lorenzo fu molto lentamente maturato, proprio per questa musicale parentesi del Cigoli musico dilettante. solo nel 90 riuscirà a consegnarlo, rompendo le corde del suo liuto. Tornando d'impeto alla pittura, che darà d'ora in poi frutti continui, già maturi di mezzi tecnici per le conoscenze e i rapporti non solo con la cultura del suo ambiente, ma con le opere e i risultati delle culture vicine. Santi di Tito, l'Allori, lo Zuccari dapprima, in un secondo tempo il Baroccio, con il quadro di Arezzo e con la deposizione di Perugia, e attraverso di lui anche il Correggio. Dal 90 i Veneti con la favolozza ricca di colori puro. Saranno per i Cigoli la linfa attraverso la quale si nutre la sua personale istruzione. Dal martirio la fama si va confermando e procurerà a lui, giovane, in mezzo ad artisti ormai celebri e sicuri, la commissione di un quadro per la cappella di Palazzo Pitti, La Resurrezione. Un punto di arrivo per un altro artista, per i Cigoli un punto di partenza. E finalmente la commissione importante, per la Pala di Santa Croce a Firenze, quella Trinità che è del 92, nella quale Ludovico riverserà quanto ha visto e imparato negli anni che precedono, i ricordi dei manieristi, di un Santi di Tito, dell'Allori, fusi alle emozioni recenti di un Baroccio e di un Correggio. Dal quadro di Santa Croce, paesi e città della Toscana si contendono l'opera sua. Empoli, con la Cena perduta. Montopoli, con la Resurrezione di Lazzaro. Pontorme, con la Concezione. E ancora Empoli, con l'Eracleo che porta la croce. Contemporaneamente le commissioni vengono dalle più importanti chiese di Firenze. Il San Pietro Martire per Santa Maria Novella, un Eraclio per San Marco, l'Annunciazione per i Cappuccini di Montughi, il San Giovanni Gualberto per Santa Maria Maggiore, dove il quadro si viene ad inserire in una sistemazione architettonica della facciata interna, che è sempre del Cigoli, pittura e architettura. Architettura e pittura per le famiglie private. Ascanio Pucci, Jacopo Giraldi, Cosimo Ridolfi, Capinera Ricasoli, Carlo Guidacci, Alberto De Bardi, oltre naturalmente al cardinale della famiglia Medici. Lo impegnano e a gara lo contendono per dipinti di uso privato o per altari padronali dentro alle chiese. Gerolamo Mercuriale di Forlì, lettore allo studio pisano, che aveva già ordinato un San Mercuriale per la sua città, ordina per sé un quadro religioso da salotto. Quella Cena in casa del fariseo, che è finita poi nell'incredibile salotto della collezione Doria di Roma. Dopo l'omaggio dei primi anni ai pittori fiorentini post michelangioleschi, dopo l'improvvisa rivelazione del Baroccio, gli anni intensi che vanno dal 90 al 97 tradiscono interessi, emozioni verso l'ambiente veneto, verso il colore atmosferico e verso le composizioni di Tiziano, di Paolo Veronese, del Tintoretto e forse dei Bassano, con una materia tonale ed una sensibilità al chiaro scuro che, nuovi in ambiente toscano, portati da un Passignano o da un Ligozzi, hanno nel Cigoli un divulgatore. Il punto di attacco di una cultura fiorentina ormai stanca e di una sensibilità veneta in pieno fervore. Il martirio di Santo Stefano, che è del 97, dovette impegnarlo oltre misura nella sua faticata passione per le nuove scoperte, per aderire ad un mondo che sentiva completamente nuovo e nel quale intendeva inserirsi, continuando a portare con sé il bagaglio manieristico, con il quale fin da ragazzo era entrato nel mondo della pittura. E insieme al martirio, sintesi e coronamento delle sue ricerche e dei suoi amori coltivati negli ultimi anni, il miracolo della mula, per la città di Cortona, sempre nel 97, offre la soluzione forse più consona al suo carattere, l'esempio più equilibrato e maturo di questo periodo. Intorno al 97, dopo i due quadri fondamentali per questi anni, è un primo breve soggiorno a Roma che lascia un'impronta notevole di impressioni e ricordi nel suo bagaglio di esperienze, con la diretta visione dell'opera dei Carracci e anche dell'opera di Caravaggio, anche se ancora si tratta di un'adesione esteriore. Solo impressioni dal di fuori, quasi incoscienti, e non le mature riflessioni del suo definitivo soggiorno romano. Al ritorno da Roma dipinge per Colle Valdelsa una Pietà, che è dell'89, e un San Gerolamo, inviato a Roma nello stesso anno, ammiratissimo dai fiorentini prima della partenza, che ha qualche cosa di nuovo nella sua intima semplicità, nella sua casalinga atmosfera di verità, come un eco di verità caravaggesca. Fu esposto nella chiesa della Santissima Annunziata al pubblico giudizio, per una bellissima usanza di quel tempo che faceva delle chiese palestre vive di pittura, inserendole nel generale interesse dei cittadini. Siamo alle soglie del 600. Cosimo I gli commette il dipinto con la sua elezione, per Palazzo Vecchio, commissione che segna una sorta di ufficiale battesimo, come una prova della validità ormai sicura della sua fama. Sempre per Cosimo disegna insieme all'Allori e allo Stradano i cartoni per una serie di arazzi con le storie della Passione, che figurano all'interno del Palazzo Vecchio, nella festività del Corpus Domini. È di questo tempo la elegantissima anatomia, in cera, dello Scorticato, dove torna, a insegnamento per le accademie dei secoli che seguiranno e per generazioni interne di pittori, il risultato e il ricordo in chiave raffinata e nitida di quel lungo tirocinio giovanile fatto a disegnare legamenti e muscoli e ossa in quella tale stanza nel chiostro di San Lorenzo. E del 600 ancora, in occasione delle nozze di Maria de' Medici con Enrico IV di Francia, sono i disegni per gli apparati e le scene bellissime con i fantasiosi costumi, per i quali i contemporanei giustamente tenevano alto il suo nome, che il nipote e il Baldinucci, i suoi primi biografi, ricordano con parole di somma lode. Scenografo, ma insieme architetto e pittore. Per San Pier Maggiore disegna una bella facciata, con ampio loggiato del quale restano pochi avanzi, e nel 601 dipinge una Adorazione dei Magi. Poi un nuovo interesse. Un'altra esperienza lo tiene fervidamente occupato, il commesso di pietre dure. Per il tabernacolo del Buontalenti, che doveva essere posto nella Cappella dei Principi in San Lorenzo e che si trova nella Cappella Palatina di Pitti, disegna una cena e un'adorazione dei magi e si ingegna a guidare gli artigiani che traducono questo disegno nella materia preziosa, splendente della pietra dura, sfruttando le variegature per effetti di stoffe e di chiaroscuri nella composizione. Dal 1602 al 1603, nella chiesa di San Gaggio fuori le mura, fa lavori di restauro, addossando ad un tabernacolo trecentesco una nuova cappella di sua architettura, ornata di ameni paesaggi e grottesche, dipingendo per l'altar maggiore una bella disputa di Santa Caterina. Si aggiunga in questi anni alle sue attività quella di letterato, sia pure dilettante e per ragioni onorifiche. Il 7 maggio 1603 entra a far parte dell'Accademia della Crusca, dove tiene una conferenza, inserito con i maggiori letterati e scienziati del tempo. E ancora dipinge quadri per i privati, per il Granduca Ferdinando, per il Principe Doria, per Carlo Guidacci. Ha studiato appena la composizione di un grande dipinto per i Serristori, da porre in essere ad un altare di Santa Croce, l'entrata di Cristo in Gerusalemme, che viene chiamato a Roma e deve lasciare interrotto il quadro dei servitori insieme ad un piccolo rame, con la fuga in Egitto, che si farà poi mandare nel 607, mentre il quadro di Santa Croce sarà poi terminato dall'allievo Bilibert, per sua volontà testamentaria. Aveva scritto in questi ultimi anni della sua permanenza a Firenze un interessante trattato sulla prospettiva, dove ha fatto tesoro degli studi e gli insegnamenti avuti con un buon talento come architetto, con Ostilio Ricci come matematico e certamente con il più importante dei suoi amici per la sua formazione scientifica, Galileo Galilei. Il Viviani, nella sua vita di Galileo, riporta infatti che il famosissimo Cigoli, stimato dal signor Galileo, il primo pittore dei nostri secoli, pregiavasi di poter dire che quanto operava di buono lo riconosceva in gran parte degli ottimi documenti del signor Galileo e che particolarmente nella prospettiva egli solo gli era stato maestro. Aveva tra l'altro inventato due strumenti per tirare praticamente una prospettiva, senza eccessiva perdita di tempo. Lascia a Firenze, prima di partire, architetture in costruzione e disegni per architetture che verranno fatte: la cappella Usimbardi di Santa Trinita, la loggetta dei Tornaquinci, il coro di Santa Maria Maggiore, il coro di Santa Felicita, progetti di ingrandimento per Palazzo Pitti. A Roma viene inviato dallo stesso Granduca Ferdinando per l'allogazione di una delle grandi tavole che venivano assegnate dal Papa ai maggiori artisti del tempo per i nuovi altari del rinnovato San Pietro, e si trovò impegnato insieme ad egregi architetti a studiare la nuovissima sistemazione della facciata, per la quale fece tantissimi disegni. Il 3 aprile del 1604 arriva a Roma, ospite dei Medici nel Palazzo di Trinità dei Monti, e c'è un'interessante lettera del segretario di Casa Medici che dall'annuncio di questo arrivo, insieme ad un giudizio positivo sul carattere dello stesso pittore: modesto, grazioso e di molto sentimento. Iniziata l'opera a lui assegnata, San Pietro guarisce lo storpio, continua a dipingere per la Chiesa dei Cavalieri in Pisa. Il Cosimo I prende l'insegna di Cavaliere di Santo Stefano, che è del 1605, e partecipa in questo tempo con Lecce Homo al concorso indetto da Monsignor Massimi, insieme con il Passignano e con il Caravaggio. Appena avuta la commissione per la deposizione di San Paolo da dipingere per la basilica omonima, già deve tornare a Firenze, richiamato per le nozze di Cosimo II con Maria Maddalena di Austria, nozze avvenute nell'ottobre del 608, e anche in questa occasione disegna grandi apparati, archi trionfali e scene. Tornato a Roma, lotta contro l'invidia e la maldicenza di colleghi e di personaggi romani intorno alla tavola di San Pietro, che distrugge, per rifarla di nuovo di fronte a tutti, senza intavolato, onde mostrare agli increduli la sua capacità. Dal Palazzo dei Medici a Trinità dei Monti va ad abitare in casa Orsini a Monte Giordano. In questo suo definitivo soggiorno a Roma, dopo due incarichi importanti come quello delle due pale per le due maggiori basiliche, le famiglie più in vista vogliono suoi dipinti e fervono le commissioni. Dipinge per Virginia e Corradino Orsini, per Monsignor Crescenzi, per il Doni, per Monsignor Giusti e ancora per il Cardinal Barberini, per Monsignor Ricci e per il Cardinale Arrigoni degli affreschi nella sua villa di Frascati. Torna nel 609 a Firenze per una triste occasione, a dare disegni ed istruzioni nella cerimonia funebre che la città faceva a alla morte di Ferdinando. Paolo V gli dà l'incarico di affrescare una sua cappella in Santa Maria Maggiore, alla quale lavorerà dal 1610 al 1613. Contemporaneamente agli affreschi, con la favola di Psiche per i Borghesi, volevano dipinto in una loggetta nel giardino del loro palazzo a Montecavallo, ed erano con lui gli scolari Coccafani e Boccacci. Finite queste opere, mentre andava dipingendo una Assunta per la Granduchessa, quadro rimasto interrotto, ebbe, prima di morire, un ultimo riconoscimento ufficiale, tramite Paolo V e il Cardinal Borghese, per i quali aveva lavorato in questi ultimi anni. Il 30 aprile 1613 veniva fatto Cavaliere dell'Ordine di Malta. L'8 giugno dello stesso anno moriva a Roma e dopo la funebre pompa veniva sepolto in San Giovanni dei Fiorentini, vicino alla pila dell'Acqua Santa. Sepoltura dalla quale doveva essere tolto per arrivare finalmente a trovare pace nella sua Firenze. Biografia di Lodovico Cardi, detto il Cigoli, scritta da Mario Bucci, in occasione della mostra del Cigoli e del suo ambiente del 1959 a Samignano.